La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui nello studio 1 di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. È sempre un piacere essere in vostra compagnia. Bene, oggi con la prima puntata si parte con una nuova serie proprio qui su Radio Talpa dedicata ai nativi americani a cura di Raffaella Milandri, che già ben conoscete con il suo format Partiamo Insieme, ma anche per le sue conferenze tenute proprio qui nella nostra città, qui a Cattolica, sui nativi e per ultimo qualche mese or sono presentando qui in radio nello spazio Z il suo ultimo libro, che tra l'altro sta riscuotendo grandi consensi, e cioè Le scuole residenziali indiane, le tombe senza nome e le scuse di Papa Francesco. Raffaella Milandri, dunque, giornalista e attivista per i diritti umani, scrittrice laureata in antropologia e membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe in Louisiana, è membro adottivo della tribù Crow in Montana, dunque una persona decisamente esperta per parlarci di questo argomento. A questo punto direi che siamo pronti con il collegamento con Raffaella Milandri e allora lasciamo le parole di presentazione di questo programma proprio a Raffaella. Ciao e ben arrivata qui su Radio Talpa. Allora, raccontaci di che cosa parlerai in questo programma e soprattutto di quello che andremo a parlare in questa prima puntata. Salve Maurizio e salve a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, è un piacere trovarsi qui con questo argomento che, come tu sai, mi appassiona molto e sul quale sto studiando da diversi anni, e che è appunto quello dei nativi americani. È un discorso molto grande, insomma, perché effettivamente la storia dei nativi americani ci tocca e tocca la nostra cultura e la storia, diciamo, degli Stati Uniti, come anche dell'Europa, insomma, per tantissimi versi. Però purtroppo c'è molta disinformazione, ci sono, insomma, molte cose da chiarire, da sapere sulla storia ma anche sull'attualità, e quindi è un argomento molto complesso ma anche poco approfondito, eppure è proprio importante come specchio della politica di colonizzazione, di assimilazione dell'Europa dei secoli scorsi, ma e ha ancora incredibili risvolti in quella che è la società attuale di Stati Uniti, Canada, ma anche di è un argomento di discussione per tutti noi. Quindi iniziamo questo nuovo viaggio. Ok Raffaella, mi dicevi prima fuori onda che oggi volevi partire con qualcosa di particolare, con un film che se ne sta parlando davvero tanto, un film di Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. Ecco, raccontaci qualcosa della trama di questo film e perché vogliamo partire da questo film. Allora, Killers of the Flower Moon è un film uscito in Italia ottobre dell'anno scorso, quindi recente, adesso sta uscendo sui vari streaming, sui vari canali, e un filmone nel senso che appunto il regista è Scorsese e poi abbiamo De Niro e DiCaprio come attori insieme a Lily Gladstone, ed è un filmone perché racconta una storia molto particolare, che ha fatto arrabbiare molte persone quando l'hanno visto, però ecco, diciamo, ci sono anche altre cose di cui discutere. E veniamo alla trama. La trama, in pratica, nella riserva della nazione Osage, riserva che è come tante altre, insomma, diciamo, negli Stati Uniti, era quindi nata per un po' relegare questi nativi americani, insomma, in un fazzoletto di terra, sottoposti ovviamente, insomma, a controlli, trattamenti e così via, eccetera eccetera. Insomma, a un certo punto, diciamo, in questa nazione Osage si scopre tantissimo petrolio, e quindi da poveri, perché insomma fondamentalmente gli indiani d'America, insomma, nelle loro riserve erano molto poveri e in molti casi lo sono anche adesso, insomma. Cioè, con la scoperta del petrolio, praticamente diventano ricchi, diventano ricchissimi. Ecco, in realtà, poi dopo ne parleremo ancora, però insomma, una cosa che non viene molto ben chiarita nel film, insomma, poi è come il fatto effettivamente che ci siano dei tutori che gestiscono il denaro, tant'è vero che la stessa protagonista, praticamente Molly, interpretata appunto da Lily Gladstone, cioè viene dichiarata, vengono dichiarati incompetent a un certo punto, lo dice nel film. E quindi in realtà, insomma, è una ricchezza un po' relativa, cioè ricchi ma non in grado di gestire il proprio denaro, che comunque non viene direttamente dalla gestione del petrolio, ma viene dalle royalties, diciamo, quindi dai diritti che i petrolieri cedono loro, quindi una parte dei diritti che vengono ceduti sul petrolio che possono sfruttare sul loro territorio. Ecco, a questo punto si crea una situazione effettivamente più unica che rara, e quindi questi nativi americani, che ricordiamo, insomma, negli anni 20, questo si svolge negli anni 20, praticamente avevano anche a livello di problemi razziali, insomma, ad esempio non potevano recarsi in tutti i locali, in tutti, come veniva fatto, insomma, per le persone di colore negli Stati Uniti in quegli anni, ma ancora per molti anni dopo, in realtà erano sottoposti a tutta una serie, insomma, di segregazioni e proibizioni. In cui e il film appunto si apre con il discorso del invece di questa ricchezza, cioè loro iniziano a comprare, spendere, comprare macchine, comprare abiti, tutto, diciamo, poi si vede, insomma, dal film che effettivamente ci sono tanti bianchi nella loro riserva, che vanno a lavorare per loro, quindi ad esempio ci sono le cameriere bianche che servono le padrone native, ci sono, insomma, tante cose che effettivamente non nella storia, diciamo, che abbiamo visto nei film fino adesso, insomma, è una storia assolutamente nuova, ma è una storia vera. A un certo punto, però, insomma, molti di questi bianchi che vivono e che guadagnano, insomma, per quanto riguarda questi indiani benestanti, insomma, non sono poi effettivamente degli amici, e qui troviamo appunto i due protagonisti, che sono De Niro, che interpreta William Hale, e DiCaprio, che interpreta Ernest Burkhardt. comincia una serie di delitti, e poi ovviamente non è che vi faccio lo spoiler, insomma, del film. E insomma, poi alla fine viene fuori che questi nativi americani, invece di uscire fuori dalla loro povertà, vanno incontro, insomma, a delle ingiustizie ancora più forti, e proseguono il loro destino di discriminazione in mezzo a una serie, appunto, di delitti e poi di indagini per le quali interverrà anche l'FBI. E dunque, Raffaella, un film sicuramente da vedere. Che cos'ha dunque di particolare? Allora, sarò breve, nel senso, tagliando la storia vado a fare direttamente un pochino quella che è la critica del film. Allora, innanzitutto lo consiglio assolutamente, ma soprattutto a chi ama i noir, perché effettivamente ne viene fuori più un crime movie che non effettivamente un western. Sicuramente, ecco, non è un western, a meno che non vogliamo dire che tutti i film dove ci sono nativi americani siano western. Praticamente vale la pena senz'altro vederlo con un po' di critica. Diciamo che è stato messo un po' troppo l'accento, appunto, sull'aspetto dei crimini e delle indagini rispetto a quello che è il quadro generale che viene dipinto. Infatti questo quadro è gigantesco, perché riguarda il caso clamoroso di questa intera nazione, gli Stati Uniti, che dopo aver sottomesso i nativi non sopporta l'idea di averli senza, casualmente, senza volerlo, accerchiati, barricati in quell'angolo sbagliato di terreno, che improvvisamente si scopre ricco di petrolio. E quindi a quel punto, insomma, effettivamente i bianchi, insomma, cercano di fare di tutto per piegare, riscrivere, infrangere la legge, insomma, in qualche modo per riprendersi questa ricchezza che non era voluta, non era dovuta, insomma, secondo, appunto, i bianchi del film. E quindi il vero storio, il vero cuore della storia è proprio questo, quando ecco, il fatto, appunto, che ci siano degli amministratori bianchi delle ricchezze degli Osage, i prezzi rialzati, i finti alleati, e il fatto che comunque ci sia poi una rete istituzionale che in realtà poi aiuta sempre comunque i bianchi, finché, appunto, non compare questo ambizioso agente dell'FBI, che era poi agli inizi. E a questo punto diventa veramente un'indagine seria. E a questo punto non parlo oltre della trama, se non, appunto, per il fatto che comunque poteva essere narrata da diversi punti di vista, dalla parte di William, di De Niro, dal punto di vista di DiCaprio, quindi Ernest, dal punto di vista solamente di Molly, che è, appunto, Lily Gladstone. Quello che è sicuro è che Lily Gladstone, che ha già vinto il Golden Globe ed è candidata all'Oscar per il suo ruolo, è la figura che veramente sbaraglia addirittura proprio questi mostri sacri del cinema. È una figura monumentale, granitica, che è l'unica che rimane poi veramente impressa a livello di una recitazione veramente fenomenale, e ancora di più proprio perché lei effettivamente interpreta in qualche modo, no? Una storia del suo popolo. E chiudo dicendo semplicemente questo, che Lily Gladstone è la prima nativa americana che è stata candidata all'Oscar. In realtà i nativi americani a Hollywood, insomma nel mondo del cinema americano, ce ne sono stati sempre tantissimi, veri, come ad esempio era Luther Standing Bear, che proprio negli anni 20 recitava, insomma, lui un Lakota recitava, insomma, la parte dei nativi, sottopagato e costretto tante volte a fare coprire dei ruoli che non erano veritieri, che quindi dipingevano i nativi americani come cattivi, selvaggi, e poi tanti altri che però non hanno mai avuto questo riconoscimento. Qui finalmente abbiamo una donna nativa americana, un'attrice bravissima, veramente brava, cioè vale da sola lei solo tutto il film, e che ricopre un ruolo veritiero con i suoi silenzi, con i suoi sguardi, di quella che è stata la realtà dei nativi americani negli Stati Uniti. Beh, alla luce di quanto detto da Raffaella Milandri, vi invitiamo ulteriormente a vedere questo film, Killer of the Flower Moon, e poi naturalmente traetene voi le conseguenze, giudicate voi stessi se siete in linea con quanto detto e con quanto appena esposto da Raffaella Milandri. L'appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi ritorna puntualissimo venerdì prossimo alle ore 17:30. Noi ringraziamo Raffaella Milandri, che sarà con noi fra 7 giorni, e vi ricordo che a breve potrete riascoltare il podcast di questa puntata sia sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sia sui vari social. Da Maurizio benvenuti, Raffaella Milandri, un abbraccio a tutti voi che avete condiviso questo primo step del viaggio alla conoscenza dei nativi americani. Ciao a tutti e a risentirci a presto. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.